In generale una Hamiltoniana dipende da φ, φ punto, gradiente di φ e dal tempo. Le relazioni canoniche sono π greco punto uguale a meno dh in dφ, φ punto uguale a dh in dπ greco, con π greco la variabile coniugata. Quantizzare significa cambiare i campi classici e farli diventare operatori, il che in questo contesto consiste nel dire che le parentesi di commutazione tra φ e π greco debbano fare meno i la delta tra r ed r', dove r' è il punto di applicazione di π greco ed r è il punto di applicazione di φ, in tutte e tre le direzioni ovviamente, vettoriale. In generale si può dimostrare la seguente quantità. L'operatore φ, dipendente da r vettore e dal tempo, è uguale a 1 su radice di 2 per la sommatoria lungo i k di ak di t φ di k di t più ak d'h di t φ star k di t. Mentre il π greco vettore, π greco operatore dipendente da r e da t è uguale a 1 su radice di 2 la sommatoria lungo k di ak di t φ k di t meno ak d'h di t φ k star di t, dove φk di t è la soluzione classica del campo. L'insieme delle φk di t sono un sistema completo di autofunzioni, mentre gli operatori hk di t e hk d'h di t sono rispettivamente gli operatori di distruzione e creazione di un quanto di energia e k. Il campo quantistico descrive un insieme di molti quanti distribuiti sui vari modi n. Può però anche descrivere un sistema diluito con pochi quanti per ogni modo. Definiamo spazio di Fock lo spazio del campo formato dal prodotto vettoriale di tutti gli autostati nk1, nk2, eccetera, per nkl. È il prodotto diretto di sottostati caratterizzati da un numero di fotoni nkl relativi al modo kl. Ora possiamo introdurre il potenziale vettore nei gauge di Coulomb. Le condizioni al contorno determinano la quantizzazione ed esempi sono il lato del cubo L della cavità del corpo nero oppure le condizioni di Born-von-Karman. Sappiamo che l'energia del campo elettromagnetico nel vuoto è uguale a E vettor H, o ancora meglio E vettor mu 0b, dove E è il campo elettrico, B è il campo magnetico. Questo non è altro che il vettore di Poynting S. La Hamiltoniana è H uguale a 1 mezzo per l'integrale in D3R su tutto il volume di epsilon 0 e quadro più 1 su mu 0 b quadro. Questa è la Hamiltoniana appunto del campo elettromagnetico nel vuoto. Introduciamo il campo ausiliario A, tale che B è uguale al rotore di A, da cui si ottiene che il rotore di E è uguale a meno il rotore di dA in dt. O, in altre parole, il rotore della somma tra E e dA in dt è uguale a 0. Possiamo anche quindi introdurre un campo scalare ausiliario, φ, tale che E è uguale a meno il gradiente di φ meno la derivata temporale di A in dt. Sia φ una funzione sia psi una funzione scalare. Allora possiamo fare la trasformata da primo ad a più gradiente di psi e φ' in φ meno la derivata temporale di psi. Tanto così a e b non variano. Ma ritorniamo ai nostri campi ausiliari vettore e scalare a e φ. Le equazioni di Maxwell attraverso questi due possono essere descritte come il rotore del rotore di A uguale a mu 0 J corrente più 1 su C quadro la derivata temporale del gradiente di Φ meno 1 su C quadro la derivata seconda temporale di A. E la seconda equazione meno la Laplaciano di Φ uguale meno la variazione temporale della gradiente della divergenza di A è uguale a ρ fratto ε0. Ora scegliamo il gauge di Coulomb. Il gauge di Coulomb dice che la divergenza di A è uguale a 0. Da cui si ottiene che, sostituendo, il gradiente di Laplaciano di φ è uguale a meno ρ su epsilon 0. Inoltre, siccome la divergenza del gradiente è uguale a 0, possiamo anche dire che la divergenza di A più il gradiente di ψ è uguale a 0. Ma sappiamo anche che Laplaciano quadro di ψ è uguale, da cui Laplaciano quadro di ψ è uguale a meno la divergenza di A, cioè meno il Laplaciano quadro di φ meno de ψ de t più il Laplaciano di ψ è uguale a ρ su epsilon 0. Cioè, comunque, in ogni caso, possiamo trovare le equazioni ancora accoppiate di Poisson, cioè Laplaciano di A più 1 su c quadro derivata seconda temporale di A meno 1 su c quadro la derivata temporale del gradiente di φ è uguale a mu 0 j. E la seconda equazione, il Laplaciano di φ è uguale a meno ρ su epsilon 0. Per disaccoppiare queste equazioni dobbiamo usare il teorema di Helmholtz, che dice che ogni vettore può essere scritto attraverso due componenti, una longitudinale ed una trasversale. Ora, per definizione, la componente trasversale ha la divergenza nulla e la componente longitudinale ha il rotore nullo. Quindi, per il gauge di Coulomb, abbiamo che il campo trasverso rispetto alla direzione dell'onda è nullo. Abbiamo soltanto quello longitudinale. Dall'equazione di continuità, quindi, abbiamo che la divergenza di J longitudinale è uguale a meno D in DT del ρ, densità di carica. E il rotore della componente longitudinale di J uguale a 0 mi dice che JL, la componente longitudinale di J, JL, può essere scritta attraverso il gradiente di una certa funzione f. Laplaciano di tale funzione f, quindi, è uguale a meno della derivata temporale di ρ, perché se andiamo a sostituire al posto di JL nell'equazione di continuità, otteniamo la divergenza del gradiente di f che è uguale proprio al Laplaciano di f. Ma sappiamo anche che il Laplaciano di φ è uguale a meno ρ su epsilon 0. Quindi la derivata temporale di ρ su epsilon 0 è uguale alla derivata temporale del Laplaciano di φ. O, in altre parole, il Laplaciano di f, ponendo uguali le due equazioni, è uguale al Laplaciano di epsilon 0 de φ in de t. Ma da cui il gradiente di f è uguale al gradiente di epsilon 0 di φ in dt, ma il gradiente di f è jl, da cui jl. Quindi, sostituendo, Laplaciano di A meno 1 su c quadro derivata temporale seconda di A meno 1 su c quadro la derivata temporale del gradiente di φ è uguale a meno mu 0 jt meno mu 0 jl. E il Laplaciano quadro di A. Ma cosa succede? Che il JL è anche uguale, abbiamo detto prima, JL è uguale alla derivata temporale di de φ. Quindi semplifica con la parte, con la termine a sinistra, a y0 ovviamente, per la derivata temporale di de φ. Ma y0 mu 0 uguale a 1 su c quadro, per cui si può semplificare con l'ultimo termine del membro di sinistra, da cui otteniamo che Laplaciano di A è uguale meno 1 su c quadro de quadro A in dt quadro uguale a meno mu 0 jt trasversale. E la seconda equazione, de quadro Laplaciano di φ è uguale a meno ρ su y0. Queste sono le equazioni disaccoppiate. possiamo scomporre in parti trasversali e longitudinali anche il campo elettrico V, in realtà.